E se qualcuno non avesse ancora capito, semplicemente uguali. Lui piangeva, piangeva, di notte sentiva la voglia di uscire, di farsi abbracciare da un dolce ragazzo che avrebbe baciato, ma presto dal sogno lui s'era svegliato. L'avevano offeso quei bulli impazziti, riempito di botte, di calci e di sputi. Beppe studiava solo 2 ore al mese, passava il tempo a ridere e a fare spese. Lui si chiedeva dove sarà il mio amore, se si toccava già gli batteva il cuore. Franco cantava sempre le sue canzoni, pensava a un palco a tante forti emozioni. Non lavorava ma sapeva sognare, 1000 progetti e poco da realizzare. E sorrideva, sono ragazzi che si amano ma non sono uomini persi. Sono ragazzi che si amano e non sono dei diversi. Quando l'amore ogni volta per gioco e si rincorrono intorno al fuoco e stanno lì a guardarsi. Beppe aspettava Franco fuori dal Duomo, non era un bimbo sì certo neanche no. I vestiti sapevano di vento, Franco li accarezzava per un momento, poi sorrideva. Sono ragazzi che si amano ma non sono uomini persi. Sono ragazzi che si amano e non sono dei diversi. Ogni volta per dopo e si rincorrono intorno al fuoco e vanno via per mano. Sono ragazzi che si amano ma non sono uomini persi. Sono ragazzi che si amano e non sono dei diversi. Fanno l'amore ogni volta per gioco e si rincorrono intorno al fuoco e vanno via per mano. Franco soffriva, soffriva perché non capiva il silenzio di ghiaccio dei suoi genitori. Gli aveva parlato di quel che provava, di un compagno dolce che loro lasciava. Gli avevano detto tu sei come gli altri, non dire sciocchezze, tu non sei diverso.